Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Buona giornata a tutti! Oltre 1 milione di copie per la tiratura iniziale in contemporanea in 50 paesi in 9 lingue e approdato nelle librerie anche italiane L'infanzia di Gesù, terzo volume della trilogia di Josef Ratzinger. Abbiamo letto il libro con il vaticanista Luigi Accattoli. È più leggero, meno drammatico nell'impostazione delle grandi questioni esegetiche, storiografiche, teologiche, perché con i primi due volumi, La vita pubblica, La passione, La morte, La risurrezione, c'era il grosso delle questioni. Qui certo c'è una questione centrale che è l'attendibilità storica dei racconti dell'infanzia, ma a parte questo tema non ci sono le grandi questioni e quindi è più fruibile, più godibile. Luigi, quali sono le pagine che ti sono piaciute di più? Sicuramente quelle in cui si affaccia la Vergine, la Madre. Questo è anche un metodo del lettore dei Vangeli che si chiama Ratzinger. Lui ha affermato fin dal primo volume: io mi fido dei Vangeli, in dialettica con quelli che discutono l'attendibilità storica, quindi si fida che vi sia nel fondo una verità storica, ma anche si affida alla narrazione, perché dice: da dove hanno preso gli evangelisti Matteo e Luca i racconti dell'infanzia? Li hanno presi da Maria, sono memorie familiari, sono cose che solo lei poteva sapere, per esempio il colloquio con l'angelo nell'Annunciazione. Ti ha colpito molto anche l'ultima parte in cui si racconta di Gesù nel Tempio, ritrovato poi dai suoi genitori. Sono stato simpaticamente colpito da queste pagine, sono le ultime, l'epilogo del libro, perché io sono padre di 5 figli, tante volte è successo a me e a mia moglie di non sapere più dove era uno dei nostri figli, lei pensava che era con me, io pensavo che era con lei, sempre io dicevo in casa, era successo pure a Maria e Giuseppe, quindi mi consolavo, no? Quando magari invece la moglie, la mamma si spaventa moltissimo. Ecco, visto che il Papa fa molto questo ragionamento, cioè entra nella dinamica della famiglia e fa l'osservazione che probabilmente Gesù veniva autorizzato dai genitori a stare con i suoi coetanei, con gli altri ragazzi, i quali si sa che poi si perdono, si smarriscono, vanno lontano. Questo è effettivamente uno di quegli aspetti in cui Ratzinger si pone dal punto di vista di Maria, cioè la fonte. Sarà lei che aveva raccontato come erano andate le cose in quella circostanza così particolare. Per chiudere, Luigi, tu dici comunque un Papa che scrive libri su Gesù è un fatto straordinario. L'aspetto bello, forte, perché io sento che molti discutono, è poco aggiornato nella citazione della bibliografia, non tiene conto di questo, di quello. Mi pare ovvio, non solo perché ha 85 anni, ma perché essendo Papa ormai da 7 deve scrivere nei ritagli. E l'interessante è che un Papa scrive un libro per dire la sua fede, non scrive un libro per difendere la dottrina, un testo di magistero, è una testimonianza personale della sua ricerca del volto del Signore, così lui dice. E questo è bello, perché è il Papa che scende dal trono, si mette dal punto di vista del cristiano e dice: do la mia testimonianza. Vi lascio a Don Willy Volonté. Qualcuno penserà che sia una bella notizia e qualcun altro dirà che questa è una capitolazione davanti alla reazione più ottusa. Comunque la notizia c'è e qualche riflessione la si dovrà pur fare. Il presidente socialista francese François Hollande, favorevole al matrimonio gay e all'aborto gratis per le ragazzine al di sotto dei 16 anni, ritenuto da tutti un campione del progressismo, questa volta è stato superato da qualcuno più all'avanguardia di lui. in questi giorni passati davanti al 95° congresso dei sindaci francesi, ha riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza per quei sindaci che non vogliono celebrare le nozze gay, nonostante il Consiglio dei Ministri francese, che lui stesso presiede, abbia recentemente varato un disegno di legge che dichiara matrimonio per tutti. E dunque diversi sindaci, persone che hanno certamente il polso della loro situazione, hanno risposto che se è proprio vero che non esistono su questi temi sensibili problemi aperti, perché mai concedere la possibilità dell'obiezione di coscienza? Se invece esistono consistenti perplessità, hanno detto al presidente francese, allora occorre riparlarne. E così su questi temi caldi, ecco sopraggiungere la nomina del ministro degli esteri di Malta, Tonio Borg, a nuovo commissario per la salute dell'Unione Europea. Il mio commissario nei giorni scorsi ha dovuto tenere testa per oltre 3 ore alle domande della commissione d'esame. Le critiche più dure sono cascate naturalmente sulle sue convinzioni circa l'interruzione volontaria della gravidanza e la legittimità dei matrimoni omosessuali. Borghi infatti pare essere un cattolico convinto. Questa è l'Europa dei tanti diritti, forse finalmente ci si è accorti che tra i tanti diritti che l'Europa esige esistono anche quelli dell'obiezione di coscienza e della libertà religiosa. Non è poca cosa per un'Europa le cui radici sono inequivocabilmente cristiane.